Il contadino e il serpente, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un contadin, un uomo di buon cuore, quanto poco prudente, andando un giorno pei suoi campi in volta, vide in terra un serpente sopra neve steso assiderato, che non aveva più fiato. Il contadin lo prese in grembo e, senza pensare la conseguenza d'un atto di sì stolta carità, innanzi a fuoco adagio lo distende e riaverlo fa. Il gelato animale ancor non sente il tiepore che già l'anima snoda, ma con la vita ritornò il serpente. Muove la testa, soffia, alza la coda, è in grado, senza cuore, sinar che sta già per spiccare il salto contro l'amico suo benefattore. «O brutta bestia senza gratitudine!» gridò quel galantuomo. «Aspetta me!» e feroce di collera com'è, dà mano ad un'accetta, e zic zac l'affetta presto presto, in tre porzioni, la coda, il capo e il resto. Guizza e cerca il serpente di ricucir le membra inutilmente. È bella cosa il far la carità, ma il farla bene è una faccenda seria. Quanto agli ingrati, sempre si vedrà che tutti finiranno nella miseria. Fine della favola, il contadino e il serpente. Questa registrazione è di dominio pubblico.